François Morin, 67 anni, è un economista che insegna all'Università di Tolosa. La sua biografia professionale non è solo quella dell'accademico. Morin è stato anche ai vertici della Banca di Francia. Negli ultimi giorni è venuto in Italia per presentare il suo ultimo libro, edito da Tropea, Un mondo senza Wall Street? Questo è l'interrogativo contenuto nel titolo. È possibile, sostiene Morin, con un'argomentazione che rimette nelle mani della politica lo scettro del governo di alcune delle più importanti variabili dell'economia finanziaria. I cambi, dice l'economista, le monete, i tassi di interesse, il costo del denaro. I governi devono rimettere le mani su queste variabili perché su di esse, dice Morin, la grande finanza speculativa ha costruito il castello di carta delle scommesse che sono contenute in tutti i prodotti derivati frutto dell'ingegneria finanziaria di questi decenni. Morin avverte però, attenzione, la prossima crisi finanziaria sarà l'ultima del mondo con Wall Street. Perché? Da qui comincia la nostra intervista. Eh bien, la réponse à cette question tient au fait que, après la crise financière et la crise... La mia risposta tiene conto del fatto che dopo la crisi finanziaria e dei debiti sovrani che conosciamo ora, le logiche finanziarie di questa finanza globale non sono cambiate e quindi dobbiamo attenderci una crisi ancora più grave, poiché gli stati alla fine non potranno rispondere a questa crisi perché gli stati sono esangui, non avranno i mezzi di bilancio, le risorse di finanza pubblica, sia per ricapitalizzare le banche, sia per sostenere l'economia come hanno fatto in occasione dell'ultima crisi. Lei sostiene nel suo libro che dopo il prossimo decisivo crack finanziario la politica dovrà subentrare allo strapotere dei mercati, e cioè dice che i governi dovranno mettere mano ad una delle cause del crack, cioè l'immenso mercato dei prodotti derivati. Ma la politica finora, professor Morin, si è mostrata subordinata al potere della grande finanza. Perché dovrebbe accadere domani ciò che non è accaduto finora? La politique, naturellement, est la seule voie possible pour contrecarrer La politica oggi è la sola voce possibile per contrastare la potenza di questa finanza globale, che è diventata sempre più instabile e che provoca delle crisi sistemiche a ripetizione. Per rispondere è necessario cambiare fondamentalmente le regole del gioco di questa finanza globale. E ciò che in realtà non è stato fatto nel corso di tutte le ultime riunioni delle G20. Ci sono state 6 riunioni delle G20 dall'inizio della crisi, 24 vertici europei. Fino ad oggi una diagnosi di questa crisi non è stata fatta. Probablement le diagnostic n'a pas été fait de cette crise. E il faut donc. Occorre invece guardare fondamentalmente alle cause di questa crisi finanziaria per darvi una risposta. Ciò che è in causa è la forza della speculazione finanziaria, che è fatta dalle grandi banche internazionali attraverso le loro sale operative di mercato e dall'azione degli hedge fund. Questa speculazione ha le sue radici nei prodotti finanziari speculativi, che in genere sono catalogati come delle assicurazioni in questa sfera finanziaria. Questi prodotti finanziari sono stati creati a causa dell'abbandono, negli anni 70 e 80, della sovranità da parte dei diversi stati su due prezzi fondamentali della finanza, i tassi di cambio e i tassi di interesse. La speculazione si è sviluppata a partire da questo abbandono di sovranità e quindi se si vuole risolvere politicamente la crisi finanziaria che destabilizza tutto il mondo, occorre ritornare sulla formazione di questi prezzi e stabilire delle nuove regole del gioco. In altre parole, bisogna porre la questione monetaria su scala internazionale, insieme probabilmente ad una nuova governance da decidere, una governance monetaria. A l'échelle internazionale, avec probablement une nouvelle gouvernance à mettre en place, une gouvernance monétaire. Si tratta di un progetto molto ambizioso e che avrà bisogno di qualche anno, ma l'importante è tracciare la prospettiva di una profonda riforma del sistema di finanziamento dell'economia mondiale attraverso la questione monetaria. Quando si mette mano ai tassi di interesse e ai tassi di cambio, significa parlare di moneta e dell'idea che gli stati riprendano il controllo sulla formazione dei tassi di cambio e dei tassi di interesse. Riprendono la mano sulla formazione dei tassi di cambio e dei tassi di interesse. Perché gli stati hanno deciso di abbandonare la loro sovranità, come diceva lei poco fa, sui tassi di cambio e sui tassi di interesse? Eh bien, cela est venu à cause d'un processus È accaduto a causa di un doppio processo, un processo intellettuale, concettuale, con l'affermazione di ciò che noi oggi chiamiamo il pensiero neoliberista, un processo che è iniziato negli anni 30 in Germania e a Lausanne, in Svizzera, attraverso la Montpellierin Society di Hayek, dove le prime idee neoliberali sono state proposte. Questo pensiero ha sostenuto che quando lo Stato interviene nell'economia, lo Stato, per definizione, è inefficace. La prima tappa che loro hanno individuato è stata di liberalizzare la sfera finanziaria. Cette pensée a affirmé que lorsque l'État intervenait dans l'économie, l'État était par definition inefficace. C'è poi un altro processo che è legato alla situazione americana alla fine degli anni 60. Sono gli anni della guerra del Vietnam, gli Stati Uniti sono in recessione, c'è una fuga di lingotti d'oro americani verso l'estero, poiché c'era una parità fissa tra l'oro e il dollaro. C'era qualcuno, come ad esempio De Gaulle in Francia, che aveva acquistato parecchio oro americano alla fine degli anni 60. Gli Stati Uniti in quel momento, il 15 agosto 1971, decidono di tagliare il legame tra l'oro e il dollaro e di seguito tra il dollaro e le altre monete, costruendo così un vasto mercato dei cambi che in breve tempo diventerà molto speculativo. Entre le dollar et les autres monnaies et de cette façon on a créé un vaste marché d'échange qui très vite va devenir très spéculatif.